24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Eurogruppo oggi a Bruxelles lo ha convocato il presidente Jean-Claude Juncker, che ha chiamato a riunione i ministri economici della zona euro per le 18 di questo pomeriggio, nonostante ad Atene non vi sia ancora un accordo tra governo, troica, UE, BCE, Fondo Monetario e partiti. L'Eurogruppo servirà a finalizzare l'accordo che sarà raggiunto in Grecia e quindi la mossa di Juncker fa salire il pressing su Atene in queste ore a dare il via libera ai nuovi aiuti da 130 miliardi di euro. Vittorio D'Aroldo, Sole 24 Ore. Sì, dovrebbe essere veramente le battute finali, perché l'austerity che dovranno appunto accettare e firmare i tre partiti prevede il taglio del salario minimo, quindi la famosa recupero della competitività, tagli ancora le pensioni e poi appunto una nuova sarà il via libera perché arrivi il cosiddetto aiuto da 130 miliardi da parte di Bruxelles. Attenzione però, perché questo non basterà, ci sono anche un altro vagone di questo treno complicato che deve essere messo in moto, ed è il cosiddetto PSI, cioè la partecipazione allo swap, al cambio dei bond di tutte le banche più grandi, le più grandi banche e assicurazioni del mondo. Questo è un altro fatto importante a cui sembra, questa è la notizia appunto di ieri, che anche la Banca Centrale Europea, quindi Super Mario, anche in questo caso sta dando probabilmente il suo contributo decisivo, perché parteciperebbe anche lui in qualche modo alle perdite, ridurrebbe il debito. Come vedete è una cosa complicata, che vede però intanto i greci molto arrabbiati con proprio il PASOK, il Partito Socialista, e addirittura premiano il Partito Conservatore, che è stato quello che ha truccato i conti, che oggi viaggia al 31%, il povero PASOK viaggia al 9%. E nell'attesa di novità sul fronte greco, le borse europee hanno chiuso contrastate. Francoforte ha ceduto lo 0,08%, Parigi lo 0,04%, Londra ha perso lo 0,24%, mentre Milano ha vantato un progresso dell'1%. Chiusura contrastata per le borse europee nell'attesa di novità dal fronte greco. Mentre Parigi, Francoforte e Londra hanno segnato lievi ribassi, Milano ha vantato un progresso dell'1%. Merito della buona performance di alcune blue chips come Enel, Prysmian e Ansaldo, che hanno puntellato il listino. A2 ha allungato il passo dopo l'annuncio delle dimissioni di Zuccoli, il presidente. Hanno registrato una buona performance anche alcune azioni bancarie, sospinte in alto dal rialzo del valore dei titoli di Stato. Sul fronte dei cambi, l'euro ha terminato le contrattazioni in Europa a 1,3243 dollari contro 1,3256 dollari di ieri. Enel ha vantato un progresso di oltre il 5%, beneficiando sia delle indiscrezioni secondo le quali c'è forte domanda per le obbligazioni che la società sta emettendo, sia da un rimborso che potrebbe ottenere la controllata spagnola Endesa. Prysmian ha guadagnato il 4,95% sulle indicazioni di ottimismo fornite dalla concorrente francese Nexan. Fuori dal paniere principale, Gabetti è volata del 22%, festeggiando il piano di rilancio fino al 2015 approvato nella notte dal consiglio di amministrazione dell'azienda, insieme all'aumento di capitale da 32 milioni, vera e propria boccata d'ossigeno per i conti della società immobiliare. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Andiamo in Ungheria. Orban replica le accuse dell'Europa, ma intanto la crisi economica si aggrava. Una marcia di disoccupati verso Budapest, dove dopo il fallimento della compagnia di bandiera Malef, Nokia annuncia nuovi tagli. Gigi Donelli. Anche in Ungheria, diciamo, c'è una situazione per certi versi simile alla Grecia senza l'euro. Infatti gli ungheresi ormai si sono abituati a guardare i tassi di cambio del fiorino, che nella crisi di gennaio era arrivato a 320 fiorini per un euro, oggi a 295, in netta risalita. Altri numeri li preoccupano, uno dei quali, l'ultimo di una lunga serie, arriva da Nokia, che annuncia il taglio di 4.000 posti di lavoro in tre impianti, ma la parte del leone, o anzi del puma, come chiamavano l'Ungheria 10 anni fa, la subisce appunto l'Ungheria. Tutto questo mentre si moltiplicano le manifestazioni di disoccupati, di persone che appunto faticano ad arrivare alla fine del mese. I dati della produzione industriale sono in crollo, meno 7,4% a dicembre. Orban, come dicevi ieri, lungo discorso alla nazione per difendere le sue scelte, la legge fondamentale, per respingere le accuse dell'Unione Europea, che a fianco dei temi economici sottolinea invece i pericoli di una deriva sul fronte delle libertà di stampa e informazione. Una vicenda anche questa che non si chiude certo oggi. Grazie a Gigi Donelli. L'Unione Europea entro l'anno non avrà i soldi per pagare le fatture che arrivano dagli Stati membri. Il buco nel bilancio europeo è già di 11 miliardi di euro e il commissario Janusz Lewandowski denuncia inquietanti contraddizioni nel comportamento dei governi che, mentre chiedono tagli al bilancio dell'Unione Europea, ad ogni consiglio chiedono maggiori fondi per far uscire l'Europa dalla crisi. Il guardiano del bilancio europeo in particolare fa riferimento ai fondi per regioni, città, aziende e scienziati. E adesso andiamo in Germania, che registra un export record. E boom di esportazioni in Germania. Nel 2011 superano per la prima volta il valore di 1.000 miliardi di euro con una crescita dell'11,4%. Anche le esportazioni segnano una crescita considerevole con un più 13,2% rispetto al 2010. La bilancia commerciale è chiusa con un surplus di 158 miliardi contro i 154 del 2010. Perso il primato mondiale come campione dell'export conquistato dalla Cina, la Germania ha comunque un saldo commerciale di gran lunga migliore rispetto a quello di Pechino. La performance e soprattutto il record dell'export sono rapidamente finiti in primo piano oggi sulle testate tedesche, con titoli di apertura di tutte le edizioni online. Tuttavia potrebbe essere difficile replicare questi valori nel 2012, con molti dei partner dell'area euro, primo mercato di sbocco della Germania, che accusano pesanti indebolimenti dell'economia se non dinamiche recessive. Del resto, già nel mese di dicembre se ne sono viste le ricadute, con un calo delle esportazioni del 4,3% rispetto al mese precedente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siria. L'Unione Europea ha deciso di inviare 3 team di emergenza nella zona per coordinare l'azione dell'Unione Europea sul terreno in vista delle future operazioni, inclusa l'evacuazione delle migliaia di cittadini europei dal paese. Intanto un'autobomba esplosa ad Homs e l'UNICEF denuncia almeno 400 vittime tra i bambini negli ultimi 11 mesi di violenza in Siria e sono inoltre centinaia i bimbi in carcere. Italia e Francia hanno superato le tensioni passate e oggi hanno una visione comune sul tema dell'immigrazione. Lo ha detto il ministro per la cooperazione internazionale, Andrea Riccardi, al termine di un incontro a Parigi con l'omologo francese Henri de Rancourt. Le tensioni dello scorso anno sui migranti provenienti dalla Tunisia sono state una congiuntura, ha detto, ma credo che oggi, e sono qui anche per questo, tra Italia e Francia ci sia una visione comune, come gestire l'immigrazione nel quadro del partenariato con i paesi del sud del Mediterraneo, ha detto Riccardi, che nella capitale francese ha anche incontrato il segretario all'immigrazione del Ministero dell'Interno, Stéphane Frattacci. Il ministro ha quindi parlato di intesa tra Parigi e Roma per far fronte alla questione dei migranti. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea chiederà l'ispezione di tutti gli Airbus A380 attualmente in circolazione a causa delle fessure trovate sulle ali di alcuni velivoli. La notizia arriva a poche ore dalla decisione presa dalla compagnia di bandiera australiana Qantas di bloccare uno dei suoi A380 a causa di 36 microfratture sulle ali scoperte al termine di un volo da Londra a Singapore durante il quale c'erano state forti turbolenze. Vessazioni, intimidazioni e violenze le subiscono molti calciatori nell'est Europa, a denunciarlo un rapporto del Sindacato Mondiale del Football Professionistico. Sentiamo. Dura la vita per un calciatore nell'Europa dell'est. 1 su 11, praticamente uno per ogni squadra, è vittima di violenze fisiche o mentali, sostiene uno studio presentato da FIFPro, il Sindacato Mondiale del Football Professionistico, evidenziando come i ritardi nei pagamenti degli stipendi favoriscano inoltre i casi di corruzione. Il 15% dei giocatori è stato costretto ad allenarsi da solo, l'11% ha subito violenze. Di questi casi, 1 su 3 si consuma in seno alla squadra di appartenenza della vittima. Il 20% è finito nel mirino di intimidazioni e molestie, rileva il Sindacato Mondiale dei Calciatori nel libro nero dedicato ai problemi di violenze personali per chi gioca a calcio dai Balcani all'ex Unione Sovietica. In particolare, il sindacato esorta un'azione concreta nei confronti dei club dove si verificano le violenze. UEFA e FIFA dispongono di sanzioni molto severe, ma sino ad ora si sono rifiutate di applicarle, stigmatizza il Sindacato Mondiale dei Calciatori. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.